Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, siamo a pochi giorni dal mondiale di mezza maratona in programma sabato prossimo a Gdynia in Polonia, sul Mar Baltico, e per l'occasione oggi è con noi, con le valigie pronte, la neo maglia azzurra Elisa Stefani. Ben trovata. Ben trovati a voi, ciao, grazie per l'invito. Come va Elisa? Ma tutto bene, un po' di agitazione ovviamente, ma quella è lecita, penso sia naturale. Sei per il resto, insomma. Sei pronta per il resto, sì. Ma speriamo. Pronto, diciamo che non si dice mai. Però sei agitata, sei emozionata? Più che altro sono emozionata. Mm. Era un obiettivo rincorso da un po' di anni, quindi finalmente. Eri già emozionata 6 mesi fa, lo possiamo dire, insomma. Sì, esatto. Ero già emozionata 6 mesi fa, poi dopo a una settimana dalla notizia della qualificazione, pronti, si parte. No, non si parte più, non andate da nessuna parte, tutto chiuso, tutti a casa. Ottimo. Comunque tra 6 giorni, sabato 17 ottobre, quindi indosserai per la prima volta la maglia azzurra per una gara su strada e mondiale di mezza maratona in Polonia, come abbiamo detto, che ad oggi sono confermate. E che gara ti aspetti? Mi aspetto una gara contenuta, dove starò molto attenta a distribuire bene le mie energie e a fare la miglior prestazione possibile. Si corre per la squadra, vengono comunque calcolati i migliori punteggi e cerchiamo di portare a casa un bel risultato per la nostra nazionale. Quindi come ti stai allenando? Ormai abbiamo quasi rifinito tutto quanto il percorso, abbiamo qualcosina da fare ancora mercoledì, però mi alleno come sempre, con serenità, tranquillità e cercando di dare il massimo in tutte le uscite. E nel frattempo non hai corso altre gare, quindi un po' un rientro con il botto, come si dice, no? Dal nulla al mondiale di mezza maratona. Sì, esatto, più che altro perché con la mia situazione lavorativa era un pochettino un rischio ritornare alle gare. Inoltre, fino ad oggi praticamente si è potuto correre solo in pista, qualche trail. Io non sono molto pistaiola e soprattutto in vista poi delle ultime gare di rifinitura ho preferito dare più importanza al programma di allenamento perché ero leggermente più indietro probabilmente rispetto alle mie compagne, perché io, patendo il caldo, che sia in montagna, che sia in pianura, che sia al mare, non mi alleno al 100% ma bensì al 50%. 60 proprio a dir tanto, quindi dovevo un attimino rincorrere questo benessere fisico anche negli allenamenti, in modo da essere un pochettino più sicura e consapevole di quello che poi dopo posso mettere in gara. Elisa, ma tu cosa preferisci, la maratona o la mezza come gara in sé? Me l'ha chiesto anche oggi un cliente, diciamo che giuro, stessa domanda. Il punto è che non saprei bene dire quale preferisca. In una che è più breve si è più al cardiopalma, quindi parti forte, devi arrivare forte. Sulla maratona, a livello di gestione delle energie mentali, la prediligo perché hai comunque una partenza e una prima parte un pochettino più all'ascolto. Più controllata, diciamo. Esatto, molto più controllata, e poi sul finale io sono abituata a dare tutto e se ne ho vado, se non ce n'è si rimane lì. E si cerca di finirla. Non sono solita demordere e le porto sempre a termine le gare, a meno che non incorra in qualche malessere fisico. Forse non ne ho finita una nella mia carriera sportiva, quindi. Ah, complimenti. Grazie. Una l'ho corsa anche senza una scarpa una volta. Ma una campestre? O perché sai, può succedere le campestre. Anch'io ho provato che andava via la scarpa nel fango e quindi non era troppo il tempo a fermarsi e così. No, me l'hanno sfilata due volte. Se rimanevo ancora lì a recuperarla, siccome era un campionato di società, L'ho presa, lanciata alla mia allenatrice e ho finito la gara. E tanto se stavo lì a rimetterla, sì. I secondi andavano. Ma nel frattempo, dopo questa mezza maratona, hai in programma qualche maratona? Perché so insomma che la Valeria Straneo andrà alla maratona di Valencia, che sarà una maratona ridotta solo agli atleti elite. Sì, lo so. Io personalmente non me la sento di preparare una maratona in queste condizioni che abbiamo adesso, precarie, perché può essere tutto confermato come non esserlo. Prepararsi per 3 mesi e mezzo in vista di un punto interrogativo, sinceramente non me la sono sentita, come anche dispendio energetico psicologico, perché gestire gli impegni lavorativi e un punto interrogativo per una 42 chilometri in questo momento così incerto, sono sincero, ho preferito non investire energie mentali. Ma però sei ancora a caccia del minimo olimpico o non ci stai pensando? In questo momento non ci sto pensando, sinceramente, perché è tutto troppo in dubbio, troppo precario, e sinceramente l'anno prossimo sarà un punto interrogativo proprio anche nella mia vita lavorativa, quindi bisogna vedere come arriverò psicologicamente preparata, perché avevo altri obiettivi, quindi potrei anche decidere di ridurre le distanze in vista del prossimo anno. Infatti, perché Elisa stava andando tutto bene, diciamo, no? Dopo la maratona di Firenze lo scorso anno, hai fatto il personale 2:31:57, sì. Il personale poi a Verona quest'anno, diciamo, prima del lockdown, sulla mezza maratona 1:13:32, e poi appunto il lockdown. Come hai vissuto quel periodo? Preoccupata ma serena, nel senso che a livello sportivo mi sono prefissato un mantenimento. Avevo tapirulana a casa, cercavo di gestirmi gli allenamenti anche indoor, si faceva quello che si riusciva. Alla fine del lockdown non avevo una condizione brutta, non avevo perso troppo. Io so che poi arrivo in vista del periodo estivo e sono un po' così, non mi sento al massimo della forma, perché ho proprio una riluttanza fisica verso le condizioni meteo. Il caldo, verso il caldo. Non fa parte di me. Ho sempre la necessità proprio di ridurre i carichi di lavoro e le distanze, perché fatico a recuperare sulla giornata successiva, perché lavorare e fare atletica è, diciamo che è di difficile gestione. Lavorarsi a una scrivania con l'aria condizionata magari da 7-8 ore, poi esco, vado a fare un bello scarico di nervi, è un'altra cosa. Faccio un lavoro abbastanza fisico, dove devo stare in piedi tutto il giorno, dover poi magari fare degli allenamenti molto lunghi o prima o dopo aver affrontato la giornata di lavoro diventa un po' impegnativo col caldo. Elisa, infatti, parlando di lavoro, la scorsa settimana un'ascoltatrice ci ha scritto criticandoci perché parliamo sempre di sportivi e non della vita delle persone che con mille sacrifici portano avanti la vita e la famiglia, appunto. E questo è uno degli argomenti di Matteo Caccia in onda ogni giorno alle 15 con Linee d'Ombra qui a Radio 24, ma noi insomma parliamo di sport e quindi insomma va un po' così. Però possiamo dire che tu non sei un atleta professionista, come ci hai detto, non vivi di corsa se non metaforicamente. Esatto. Tu hai un tuo lavoro, incastri tutto riuscendo a correre comunque forte. Sì. Cerco di gestirmi al meglio. Ormai ho una mia piccola attività da 4 anni, sempre nell'ambito sportivo. Cerco di prendermi cura degli sportivi o chi comunque fa dello sport una medicina, perché io sono comunque dell'idea che lo sport ci salva sotto tanti aspetti, soprattutto quelli fisici, quindi mi occupo di chi ha problemi a livello di malattie degenerative, post interventi, persone gravi problematiche di sovrappeso. Insomma, più tutta la parte invece dedicata agli sportivi del massaggio sportivo, decontratturante e via discorrendo. Quindi diciamo che cerco di concentrare tutte le mie energie sulla persona. Quindi incastri lo sport con lo sport, diciamo. Esatto, esattamente. A volte mi lascio quell'oretta, 40 minuti in cui so che posso uscire, fare ancora quel richiamo di allenamento e poi dopo concentrarmi ancora qualche ora al lavoro, solo che il tutto diventa abbastanza stressante. Anche perché comunque ci metti anche mentalmente, immagino che occupandoti della persona, come dicevi prima, insomma non è facile, no? Essere al di fuori della questione con una persona. No, esatto, è proprio come avere un interruttore che devi cercare di accendere e spegnere in ogni momento. Esci di casa, devi accendere l'interruttore che ha il tuo nome sopra, finisci, spegnere immediatamente, accendere l'interruttore per la persona che entra dalla tua porta e dedicarti comunque a lei, cercare di riprogrammare le idee, capire di che cosa ha bisogno in quel momento, a volte anche ascoltare la persona che entra da quella porta, è complicato. Poi io negli spazi anche di tempo, quello che ho sempre fatto da un po' di anni, ho sempre insegnato anche ai gruppi di bambini, prima nel nuoto, poi nell'atletica, o qualche signora magari nei corsi ludici in palestra, quindi insomma è un continuo movimento a livello di testa. Non è semplice, come stress abbastanza alto. Però insomma io arrivo a casa che sono sempre contenta di quello che ho fatto. L'importante poi è questo, no? Essere soddisfatti. Però quando è che è il tempo per correre? Vai al mattino presto o la sera? Presto. O tutte? Ah, ok. Mattino presto, poi in estate la sera abbastanza tardi, però insomma fino alle 9, 9:30 nel periodo estivo abbiamo la possibilità di avere luce. Diversamente in inverno tengo un'oretta a metà pomeriggio, tipo l'orario odierno in cui ho dedicato la chiacchierata a voi. Quindi insomma a metà pomeriggio faccio il richiamino durante la settimana. E che consigli ti chiedono invece solitamente gli amatori che incontri alle gare? Tantissimi. Ma come fai a fare tutto? Come fai ad avere ancora voglia di andare così forte? Insomma. Come fai ad avere voglia di andare così forte? Era inseguire una maglia di quel colore che tirò tra pochi giorni. Era quel tassello mancante del puzzle che avevo da ragazza. Da quanti anni corri, Elisa? 22, per la precisione. Avevo 12 anni quando ho iniziato. E quindi ero una bambina. Sì, però era divertentissimo battere i maschietti nelle corse campestre scolastiche, e quindi è stata quella la spinta che mi ha dato la motivazione per andare avanti a farlo anche come attività agonistica. E facevi anche i 3.000 ostacoli, no? 3.000 siepi, sì, in pista. Sì, che insomma è un po' la campestre della pista. Sì, esatto, è molto molto impegnativo, solo che poi i problemi al ginocchio non mi hanno permesso di continuare, perché ho avuto due gravi problemi al tendine rotuleo, ho dovuto gestirli un po' con le pinze, sono stati due problemi che fondamentalmente mi hanno portato a sospendere gli allenamenti e le gare in due momenti molto importanti per la mia carriera sportiva. A ridosso di due annate molto, molto redditizie a livello di possibilità di maglia azzurra. Ne ho saltate due proprio nel momento dell'infortunio al ginocchio, quindi doveva essere un po' un riscatto quello mio degli ultimi anni. Ma mi ero fatta una promessa, quindi dovevo mantenerla. Almeno te stessa, insomma. Ma allora parlavamo prima di maratone, una delle poche che sono delle maratone che sono rimaste è Ravenna e poi Reggio Emilia, che tu hai anche vinto, se non ricordo male. Sì, esatto. Che gara è? Reggio Emilia è una gara insomma difficile ma bella, nel senso che è un po' diversa dalle solite maratone delle grandi città, quelle cittadine dove hai il passaggio in mezzo alla gente, vedi tanti monumenti. È un po' una di quelle gare che piacciono a me, una prima parte nel tessuto urbano e poi si esce, questi bei campi comunque che ti circondano. A me davano questo senso di rilassatezza e di poter staccare proprio la testa nei chilometri un pochino più impegnativi, che sono quelli centrali, e poi rientrare comunque nella piazza sul finale e avere comunque la soddisfazione di ributtarsi in una bella città come Reggio Emilia. Perché a metà percorso, se non ricordo male, anche io l'ho fatta, ci sono delle salitine, no? Sì, è mossa, non sì. È una gara piatta, velocissima, è un po' muscolare, però è una bella gara. Io le sento un pochino più mie le gare muscolari, più che quei piattoni incredibili dove perdi un attimino l'orizzonte perché non vedi mai il prosieguo, è sempre questa lingua di asfalto infinita ed è sempre... devi sempre stare sul cardiopalma, o meglio sul Garmin, con l'occhio sul cronometro. Per l'amore di Reggio Emilia, appunto, quest'anno sarà anche il campionato italiano di maratona. Mi viene in mente che tu nel 2013 sei stata campionessa italiana di maratona a Cividale. Che ricordo hai? Vento a parte. Oddio, un ricordo abbastanza combattuto tra la gioia e il dolore proprio. Perché comunque ho visto tre città bellissime, è stata una grande emozione anche arrivare davanti alle straniere in quella gara lì, però mi ricordo questi 20-25 chilometri comunque al sedicesimo, c'è stata proprio l'uscita dalla seconda città d'arte dove ho trovato questo muro di vento che mi ha accompagnato fino al 40° chilometro. No, era contro. Quindi insomma è stata un'emozione grandissima, il taglio del traguardo ovviamente, però la ricordo con odio durante la parte centrale della gara. Elisa, invece, in chiusura, il tuo cane è più velocista o maratoneta? No, è più maratoneta. Ah, più maratoneta. Il cane non è un velocista, se deve scappare da qualche pericolo... prima che carburi la velocità a cui deve andare per riuscire a sfuggire, no, gli piace stare tanto sulle zampone e viene con me a fare i giri un pochino più lunghi, ecco, però quelli non impegnativi. Grazie Elisa. È un bracco tedesco di Weimar, più propriamente detto Weimar Runner, si fa un po' prima. È quello che quando mi incontrano tutti mi dicono: oh, che bel Segugio! Okay. Perché non è quello della pubblicità segugio.it, sì, ma è un bracco, è un cane da caccia, non c'entra niente, però va bene. È il tuo pacer, insomma. Sì, più che il mio pacer, insomma, la tua compagnia. Sì, esatto, proprio quotidiana, è il mio alito di ossigeno, chiamiamolo così, perché quando andiamo a correre insieme guardo lui e non penso a quello che sto facendo io, quindi a quanto tempo devo star fuori, a quanto deve girare il cronometro, non mi interessa, mi godo proprio il paesaggio e le sue marachelle, perché corre dappertutto, ogni tanto mi taglia la strada, mi ha tirato in terra un paio di volte prima di imparare ad andare dritto, quindi è divertimento, è divertimento. Eccolo lì. Allora, grazie Elisa e Stefani e a presto, in bocca al lupo allora. Grazie, viva il lupo sempre. Sempre viva il lupo, in bocca al lupo. E grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.